Secondo le prime proiezioni, i risultati definitivi si conosceranno solo tra una settimana. Susilo Bambang Yudhoyono e Yusuf Kalla sono rispettivamente i nuovi presidente e vicepresidente dell'Indonesia. Yudhoyono, o Sbi, come viene soprannominato, aveva vinto il primo turno e tutti i sondaggi lo davano per vincitore, ma nulla era scontato nella prima elezione diretta in Indonesia del capo dello Stato e dopo ben 32 anni di dittatura militare, conclusosi nel 1998 con la caduta del generale Suharto. Anche Yudhoyono è un generale, o meglio un ex generale, come del resto era Suharto. In un paese dove il partito dei militari è ancora un potere forte, nemmeno tanto occulto, appartenere a questa casta in divisa o in abiti civili è forse una garanzia. E può darsi che Sbi sia stato scelto anche per questo. In una nazione dove l'instabilità si accompagna a una democrazia fragile, vessata dalla povertà e dalle ingiustizie sociali, che la nuova era democratica non ha ancora saputo vincere, un militare appare pur sempre il garante della sicurezza. Ma non sembra questa la sola ragione per cui gli indonesiani hanno votato Yudhoyono. Il voto per lui, volto rassicurante e piglio deciso, un passato da ministro della sicurezza e un profilo personale di uomo trasparente ed onesto, è anche un voto contro Megawati Sukarnoputri, la presidente uscente e che ha deluso i suoi tanti sostenitori della prima ora. La sua storia, che ha avuto molto di eroico ai tempi della dittatura, quando era praticamente l'unica voce fuori dal coro, è diventata una soap opera di parole al vento. La promessa della Reformasi, come era chiamato il movimento che aveva battuto la dittatura e di cui Megawati era la regina, si è trasformata in una gestione opaca del potere, in cui Mega ha ceduto alle pressioni dei militari, ma soprattutto a quelle delle forze occulte che dominano l'economia. Se i sondaggi dicono la verità e il trend del voto già scrutinato sembra per ora confermare il dato, Susilo Bambang Yudhoyono dovrà dimostrare che l'uomo della Reformasi è lui, dovrà dimostrare che un buon ex generale, era considerato tra le colombe dell'esercito, può essere anche un buon presidente in abiti civili, che ha messo definitivamente in naftalina la tuta mimetica. Emanuele Giordana, Lettera 22, Amisnet.